Bene, mi volevi dire della, della ferrovia. Una cosa tipica di Ormea era questa ferrovia che Ormea Ceva, che frequentavo abbastanza regolarmente quando venivo con i miei genitori. Ricordo una volta di essere arrivato a Ormea alle 9 di sera o qualcosa del genere, essendo partito all'alba da un altro paese della stessa provincia di Cuneo, molto lontano da qua in valle. La provincia grande, non provincia a caso. Ma questo per dire che per muoversi senza automobile, allora avevo 17 anni, per muoversi da Bellino, che è un paese nell'alta valle. Lo so, lo conosco dove è Bellino. Ho dei carissimi amici che hanno una baita a Bellino. Ecco, ero a Bellino. Che ci si arriva solo a piedi poi in questa baita dove sono loro. Nell'ultima frazione di Bellino, in casa di un amico, della nonna di questo amico, partito da lì all'alba, sono arrivato qua alle 9 di sera. Incredibile. Nella stessa provincia. Nella stessa provincia, prendendo tipo 4 mezzi e facendo anche qualche chilometro a piedi. Però andava benissimo, era un modo di muoversi, e la ferrovia era il posto che collegava, comunque funzionava. Spiace che non esista più, se non soltanto come scopo turistico due volte all'anno o qualcosa sì, del sì, genere. È un evento. Però la cosa che noi abbiamo notato, io l'ho notato in questi tempi, insomma, che sto osservando un po' Ormea, è il fatto che comunque questo pretesto turistico del treno storico ha dato la possibilità di mantenere la linea. I binari funzionano, quindi se c'è la volontà e la necessità si può pensare di ripristinare un servizio pubblico per la Valle del Tanaro potersi muovere sì. con il treno. C'è tutto. Certo. Cioè bisogna solo mettere a computer in una tabella degli orari del personale certo. e via. Ma infatti se ne è parlato negli ultimi un paio d'anni di qualche imprenditore che voleva forse ripristinare la linea. Che però è di proprietà delle Ferrovie dello Stato, sì, Rete Ferroviaria Italiana. E quindi non c'è stato l'accordo. Questa è la notizia che abbiamo recuperato. Non ho seguito fino in fondo. Comunque, interessante. Un'altra cosa interessante di Ormea è che comunque questa e altre motivazioni fanno in modo che Ormea sia, rispetto alla quantità di abitanti, un centro, un fulcro veramente di attività culturali. Sì. Io abito a Imperia. Imperia ha 40.000 abitanti, Ormea ne ha 1.500. Ci sono più attività culturali in certi periodi qua a Ormea che in città, che quindi, è il capoluogo di provincia. Che è capoluogo di provincia, quindi assolutamente interessante. Poi ci spingiamo fin lì o rientriamo? Rientriamo da qualche parte, se vuoi. Io rientrerei in centro storico però, perché lo stradone quest'ora mi sembra molto trafficato. Sì, qui ci sono altre cose diciamo di importanza storica per me, diciamo, del secolo scorso. Stai registrando? Sì, sì. Ah. Che ti dico allora? Ecco, quando ho cominciato a venire a Ormea, io avevo 14-15 anni con la mia famiglia, mio fratello più piccolo che ne aveva 12. Per questi vicoli tutte le sere lui e la sua compagnia giravano correndo avanti e indietro, andavano a suonare i campanelli delle persone alle 10 di sera e poi scappavano correndo. È un classico, l'abbiamo fatto tutti da ragazzini. Questa era una cosa proprio tipica che facevano i dodicenni. Noi eravamo già più grandi, magari andavamo fuori paese a suonare la chitarra e a cantare. È la musica. La musica, certo. Sì. È sempre stata ovviamente veicolo. Beh sì, dei giovani. Sì. All'aperto, certo, mi viene da dire, no? Musica all'aperto, assolutamente, nel bosco, all'inizio del bosco. Un'altra cosa, beh, ovvia, sono cambiati molte destinazioni d'uso. Posti ecco. Che erano negozi sono cambiati, in 60 anni ne ho visti proprio un avvicendarsi. Sì, avvicendarsi decine, compresi i ristoranti che hanno cambiato gestione, sì, hanno cambiato genere, eccetera. Questo era un ristorante, ha cambiato gestione. Trattoria. Questo è stato un ristorante per decenni, adesso è chiuso. Quindi cambio di destinazioni d'uso dei negozi, che comunque continuano a essere il centro per molti paesi dei dintorni, perché certo, ho amici che vanno a Viozene, che sì, a 20 km che tra l'altro è un gioiello, anche Upega, Viozene, però sotto... poi ovviamente al mattino sono qua a comprare il giornale, certo, a fare la spesa, perché qui le attività ci sono, perché qui le attività per fortuna ci sono, anche da Monesi, che è distante sì, parecchi chilometri, vengono qua ovviamente le persone. Quindi... secondo te che cosa ha favorito Ormea rispetto ad altri centri? Per questo cambiamento ovviamente l'abbiamo detto, però le attività ci sono. La rete viaria sicuramente, secondo me anche, questa è un'opinione personale, sì, ma certo, forte mia, la buona gestione del comune di Ormea. Le attività culturali soprattutto dovute all'associazione Ulmeta, ma anche sì, al gruppo che si occupa che del ha sede cinema, un po' più che avanti, sì, mi sembra, dov'è? Da queste parti mi sembra, forse un po' più su. Esatto. Sì, sì, sì. No, là. Ah, ok, sì, sì, ma so che è in questo tratto. E anche il gruppo che si occupa del cinema, comunque sì, c'è cinema nei fine settimana, ma d'estate anche tutte le sere, quasi tutte le sere all'aperto. Cinema di buona qualità, insomma, io frequento il Cineforum a Imperia, molti dei film che passano nell'inverno nel Cineforum di Imperia ci sono quest'estate, poi... Ormea. Cinema di qualità, sto dicendo. Sì. Ecco, qua ci sono le locandine con sì, le attività. Assolutamente. Poi Neva in particolare è molto attiva, sì, è molto attiva in questa motivata e appassionata. Sì. Credo che ci occupi gran parte del suo tempo libero, specialmente sì, nella stagione estiva. Ma è un bel tempo, eh? Certo che è un bel tempo. Certo che è un bel tempo, infatti. Quando arrivo, io d'inverno non vengo di solito, quando arrivo all'inizio della stagione mi rivolgo a lei per chiedere che cosa bolle in pentola. E mi sta dicendo adesso che fra un po' ci sarà un festival di cantautori, per esempio. Che bene. Una cosa ancora la musica. Ancora la musica, certo. Ottimo. Poi in particolare per quelli della nostra generazione, i cantautori hanno significato... Ci hanno accompagnato negli anni 60 tanto. E 70, sì, sì, l'emanciparci dal Festival di Sanremo, ecco, passando ad altri temi, ad altre cose. Sì. Questa per esempio è un'attività nuova, assolutamente nuova, a partire dall'anno scorso, gelateria e anche vendita di formaggi, perché è di una famiglia che di allevatori. Ecco. Quindi direttamente utilizzano i loro prodotti? Utilizzano i loro prodotti e la gelateria è venuta come conseguenza della produzione del latte. Quindi, interessante. Quindi ci sono anche attività nuove. Poi ci sono i computer che non mancano, vabbè, farmacia. Sì, anche questo, due negozi di computer. Sì, ho notato. Due negozi di computer. È abbastanza curiosa come cosa. È il segno dell'attività multiforme della città. Sì. Ciao. Ciao. L'edicola di giornale adesso è in fase di cambio di gestione. Ecco. Ho visto, oggi è chiusa, perché altrimenti comunque... Ah, perché stanno proprio in questa fase. In questi giorni stanno cambiando la gestione. L'importante è che rimanga. Certo, certo. E poi ecco un'altra attività che negli ultimi anni c'è agenzie molto. Immobiliari. Ci sono due agenzie immobiliari, c'è molta vendita di ex cascine. Nei dintorni, quindi. Dintorni, nelle frazioni, assolutamente, a prezzi molto bassi. Ho visto, molto bassi, sì. Rispetto a chi comunque, è abituata. Comunque ci sono compravendite oppure in realtà stagnano lì questi immobili? Cioè, ma secondo io te? Non lo so, perché non sono diciamo direttamente non mi occupo di questa cosa qua. Sì, sì, no, a tua sensazione sempre. La mia sensazione sì, almeno l'interesse dei turisti c'è, perché vedo continuamente gente che guarda e dice 27.000 con 10.000 metri di terreno. Esatto, che l'importante... questo è uno dei...